Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Al termine di un anno, Lady Lyndon mi fece dono di un figlio. Lo chiamai Brian Lyndon, in omaggio ai miei antenati regali. Ma che altro avevo da lasciargli, oltre a un nobile nome? Le proprietà di sua madre non erano forse destinate a quell'odiosa peste, Lord Burlington. Per inciso, non ho ancora parlato di lui, anche se viveva ad Acton, consegnato a un nuovo istitutore. Era un ragazzo di un'impertinenza spaventosa. Aveva l'abitudine di citare brani dell'Amleto a sua madre, cosa che la faceva montare su tutte le furie. Una volta che prese un frustino per castigarlo, sguainò un coltello ed era pronto a colpirmi. Diamine, allora mi ricordai della mia giovinezza in cui ero stato molto simile a lui. E così gli tesi la mano, scoppiando a ridere, e gli proposi di diventare amici. Per quella volta ci riconciliamo, e anche la volta dopo, e quella dopo ancora. Ma certo, non c'era grande amore tra di noi, anzi, il suo odio sembrava crescere insieme alla sua statura, cioè a vista d'occhio. Decisi di dotare il mio caro piccolo Brian di una proprietà tutta sua, e a questo scopo feci tagliare legname per 12.000 sterline nella proprietà di Lady Lyndon nello Yorkshire e in Irlanda. A questa mia trovata, il tutore di Burlington, che era Tim Toff, si mise a strillare come al solito e giurò e spergiurò che non avevo il diritto di toccare neppure un fuscello di quegli alberi. Ma vennero giù lo stesso e incaricai mia madre di riacquistare le antiche terre di Ballyberry e Berryhogue, che un tempo avevano fatto parte degli immensi possedimenti della mia casata. Lei le comprò con grande avvedutezza e con estrema gioia. Le si scaldava il cuore all'idea che mi era nato un figlio che avrebbe portato il mio nome e al pensiero delle mie meravigliose fortune. A dir la verità, avevo una gran paura ora che vivevo in una sfera tanto diversa da quella in cui lei era solita muoversi, che venisse a farmi visita e lasciasse attoniti i miei amici inglesi con le sue vanterie, il suo accento irlandese con il suo belletto e le sue vecchie crinoline e i falpalà del tempo di Giorgio II. Abiti che l'avevano fatta ben figurare quando era giovane e di cui era ancora entusiasta, convinta com'era che fossero sempre all'ultima moda. Così le scrivevo rimandando la sua visita, pregandola di venire non appena fosse stata ultimata l'ala sinistra del castello o non appena costruite le scuderie e via dicendo. Ma non c'era bisogno di simili precauzioni. «So cogliere le imbeccate, Redmond», rispondeva la vecchia signora a mia madre. «Non intendo venire a disturbarti tra i grandi d'Inghilterra che hai per amici con le mie antiquate maniere irlandesi. Per me è una benedizione pensare che il mio caro ragazzo ha raggiunto la posizione che ho sempre pensato gli fosse dovuta e che mi ha indotto a fare tanti sacrifici per educarlo. Un giorno devi portarmi il piccolo Brian, perché la sua nonna possa dargli un bacio. Porgi la mia rispettosa benedizione a sua signoria, la sua mamma, e dille che ha trovato un tesoro di marito, come non l'avrebbe avuto neppure se avesse scelto un duca per sposarla, e che i Berry e i Bredi, anche se non possiedono titoli, hanno nelle vene il miglior sangue che ci sia. Non avrò pace finché non ti saprò conte di Ballyberry e mio nipote, Lord Visconte Berryhogue. Com'era strano che per la mente di mia madre e nella mia passassero gli stessi identici pensieri. Perfino i titoli su cui lei era andata a parare erano gli stessi che, com'era naturale, avevo scelto io, e non esito a confessare che avevo già riempito una dozzina di fogli con la mia firma seguita dai titoli di Ballyberry e Berryhogue, e che ero ben deciso, con la mia solita risolutezza, a ottenere ciò che volevo. Mia madre andò a stabilirsi a Belly Berry, vivendo a casa del pastore in attesa che venisse eretta una dimora padronale. In testa alle sue lettere scriveva Belly Berry Castle, e io davo a vedere naturalmente che questa non fosse una sede di poco conto. Tenevo una pianta della proprietà sia nel mio studio di Acton che in quello di Berkeley Square, e anche il prospetto di Belly Berry Castle, residenza ancestrale del gentiluomo Barry Lyndon, con i miglioramenti progettati. Ah, il castello vi appariva più o meno della grandezza di Windsor, ma l'architettura era molto più ornata, e visto che proprio allora mettevano in vendita 800 acri di palude, li acquistai a 3 sterline l'acro. Così la mia proprietà sembrava, sulla carta, tutt'altro che insignificante. I fastidi della proprietà, le furfanterie degli amministratori e i cavilli degli avvocati non finiscono mai. La gente modesta invidia noi, grandi uomini, e immagina che la nostra vita sia tutta una delizia. Molte volte, negli anni della mia prosperità, ho sospirato i giorni in cui la mia fortuna era al suo punto più basso e ho invidiato i buon temponi che avevo alla mia tavola, senza abiti addosso se non quelli che prendevano a credito da me, senza una guinea che non fosse uscita dalle mie tasche, ma senza nemmeno quelle tormentose preoccupazioni e responsabilità che sono il cupo corollario del rango e della ricchezza. Nel Regno d'Irlanda mi limitai a fare una breve comparsa per prendere in mano l'amministrazione dei miei beni. Premiai generosamente coloro che mi erano stati vicini nelle mie passate avventure e occupai il posto che mi spettava nell'aristocrazia dell'isola. Ma a dir la verità c'era ben poco che mi allettasse a rimanere lì. Ora che avevo gustato i piaceri della vita inglese e continentale, ben più aristocratici e appaganti. Così trascorrevamo l'estate a Buxton, Bath, a Harrogate, mentre Acton Castle veniva abbellito nelle forme eleganti che io ho già descritto, e passavamo la stagione mondana nel nostro palazzo di Berkeley Square. È meraviglioso come il possesso della ricchezza metta in luce le virtù di un uomo, o comunque le copra di una vernice lucida che ne fa spiccare i colori brillanti, come non accadeva mai quando quello stesso individuo era immerso nell'atmosfera fredda e grigia della povertà. Vi assicuro che ci volle ben poco tempo perché io diventassi un membro di spicco delle classi alte. Facevo non poca sensazione nei caffè di Pall Mall e più tardi nei club più famosi. Il mio stile, le mie carrozze circondate di lacchee e i miei eleganti ricevimenti erano sulla bocca di tutti. Se ne parlava in tutti i giornali del mattino. I rami più modesti della famiglia di Lady Lyndon e tutti quei parenti che il vecchio Tiptoff aveva offeso con la sua intollerabile boria iniziarono a comparire a feste e ricevimenti a casa nostra. Quanto alle mie parentele a Londra e in Irlanda, trovai più cugini pronti a proclamarsi miei consanguinei di quanti mi fossi mai sognato di avere. Alcuni, naturalmente, erano del mio paese, e sì che io non ero particolarmente orgoglioso del mio paese. Vennero a farmi visita 3 o 4 damerini del Temple, fanfaroni scalcagnati, con i merletti consumati e l'accento di Tipperary, che speravano di diventare avvocati a Londra a furia di pranzi in mensa. Poi certi avventurieri che giocavano d'azzardo nelle stazioni termali, gente che rimisi al suo posto in 4 e 4/8, e infine qualche altro personaggio di condizione più accettabile. Tra questi ultimi posso citare mio cugino Lord Kilberry, che in grazia alla nostra parentela prese a prestito da me 30 monete d'oro per pagare la sua locandiera di Swallow Street. A lui permisi, per ragioni mie personali, di proclamare e dar credito a un legame di sangue che il collegio araldico non riconosceva assolutamente. Kilberry aveva sempre un posto alla mia tavola, puntava al gioco e pagava quando ne aveva voglia, cioè di rado. Conosceva intimamente il mio sarto e gli doveva somme notevoli, ma si vantava sempre di suo cugino, il grande Barry Lyndon del Regno Occidentale. Dopo qualche tempo, sua signoria e io cominciammo a vivere vite piuttosto separate. Lei preferiva la tranquillità, o meglio, la preferivo io per lei, a dir la verità, perché nelle donne mi piace molto un contegno modesto e tranquillo e il gusto delle gioie domestiche. Perciò la incoraggiai a pranzare a casa con le sue dame, il suo cappellano e qualche amica. Permettevo a 3-4 persone per bene e discrete di accompagnarla al suo palco all'opera o a teatro in occasioni adatte. Inoltre declinavo a suo nome le visite troppo frequenti dei suoi amici e familiari, preferendo riceverli solo 2 o 3 volte nel corso della stagione mondana, quando davamo un grande ricevimento. E poi, lei era una madre, e le dava un gran conforto vestire, educare e vezzeggiare il nostro piccolo Brian, e per amor suo era opportuno che lei rinunciasse ai piaceri e alle frivolezze del mondo, e così lasciò a me questa parte dei doveri di ogni famiglia distinta. A dir la verità, a quell'epoca l'aspetto di Lady Lyndon non era proprio tale da permetterle di fare una gran bella figura nel mondo elegante. Era molto ingrassata, miope, di colorito pallido, trascurata nel vestire, piatta e noiosa in tutto ciò che faceva. Le sue conversazioni con me erano caratterizzate da una stupida disperazione o da sciocchi e goffi slanci di un'allegria forzata ancora più sgradevole. Perciò i nostri rapporti erano minimi e per forza di cose la tentazione di portarla in società o di rimanere in sua compagnia era davvero trascurabile. Anche in casa, del resto, metteva alla prova la mia pazienza in mille modi. Quando le chiedevo, spesso in modo piuttosto brusco, questo lo ammetto, di intrattenere la compagnia con un po' di conversazione, qualche battuta di spirito, 4 parole di cultura, tutte cose in cui era versatissima, o con della musica, di cui era ottima esecutrice, la metà delle volte cominciava a piangere e usciva dalla stanza. I miei ospiti, naturalmente, visto questo comportamento, si immaginavano che io fossi un vero tiranno, mentre ero solo il guardiano severo e sollecito di una signora stupidina con un brutto carattere e poco cervello. Per fortuna era molto affezionata al suo figlio minore e per mezzo suo potevo esercitare su di lei un potere salutare ed efficace. Infatti, se in uno dei suoi capricci o in un accesso di superbia quella donna era di un orgoglio insopportabile, nelle nostre prime liti osò rinfacciarmi più volte la mia bassa nascita e la mia povertà di un tempo. Sì, dico, nei nostri diverbi pretendeva di avere la meglio, di affermare la sua autorità sopra la mia, o rifiutava di firmare le varie carte che io ritenevo necessarie per la buona ripartizione delle nostre vaste e intricate proprietà, io facevo portare via Brian per un paio di giorni. Vi garantisco che la sua signora madre non resisteva più a lungo e accettava qualunque cosa volessi proporle. Fece attenzione che tutti i domestici che le stavano attorno fossero stipendiati da me e non da lei. La governante in capo del bambino, in particolare, obbediva ai miei ordini e non a quelli di Milady. Ed era una sfacciatella, un impudente, ma proprio carina, con le sue guance rosse. Mi faceva fare una figura davvero imbecille. In casa questa donna contava di più di quella povera signora imbelle che era la padrona di casa. Dettava legge alla servitù. E se io mostravo speciali attenzioni per qualcuna delle signore che venivano a trovarmi, quella sgualdrina non si faceva scrupolo di mostrarsi gelosa e trovava modo di farle fare fagotto. Il fatto è che un uomo generoso viene sempre preso per il naso da questa o quella donna, ma questa qui in particolare aveva tanta influenza su di me che poteva rigirarmi attorno al suo mignolo. Per via del carattere infernale di Mrs. Stammer, si chiamava così quella sgualdrinella, e delle lunatiche fasi depressive di mia moglie, casa mia non mi era più troppo gradita. Perciò ero costretto a uscire molto, e dato che in ogni club, taverna o serata mondana di solito si giocava, io naturalmente fui obbligato a riprendere le mie vecchie abitudini e a ricominciare da amatore quei giochi in cui un tempo non avevo rivali in Europa. Ma o che il carattere di un uomo cambi con la prosperità, o che la sua abilità lo abbandoni quando, privo di un compare e di un coinvolgimento professionale nel gioco, vi prende parte come fanno tutti gli altri, per passatempo, fatto sta che nelle stagioni del 1774 e 1775 persi molto denaro da White's e al Cocoa Three, e fui costretto a far fronte alle mie perdite chiedendo notevoli prestiti garantiti dalle rendite annuali di mia moglie, dalla sua assicurazione sulla vita e così via. Le condizioni a cui ottenni le somme che mi erano necessarie e le spese richieste dai lavori di miglioria erano naturalmente molto gravose e intaccarono profondamente la proprietà. Furono proprio alcune di queste carte che Milady Lindon, che era una donna di vedute limitate e un carattere timoroso e taccagno, si rifiutò talvolta di firmare finché io non la persuasi nel modo che ho già descritto. Ora sarebbe il caso di parlare dei miei rapporti con l'ippodromo, che erano una parte importante della mia vita d'allora, ma a dire la verità non mi fa particolarmente piacere ricordare le mie attività all'ippodromo di Newmarket. Da quasi tutti gli affari che vi feci, uscii pelato e malconcio, perché, per quanto nel montare a cavallo non fossi inferiore a nessuno in Inghilterra, non reggevo il confronto con i nobili inglesi quando si trattava di puntare sul cavallo vincente. 15 anni dopo che il mio cavallo Bay Beulah perse la corsa a premi di Newmarket, in cui era stato il primo tra i favoriti, scoprii che un nobile conte, di cui non riferirò il nome, era penetrato nelle scuderie quella mattina stessa. Il bel risultato fu che vinse un cavallo venuto da fuori, e il vostro umile servitore andò sotto di 15.000 sterline. A quei tempi gli stranieri non avevano alcuna possibilità sulla pista. Per quanto abbagliato dallo splendore e dall'eleganza lì raccolti, c'erano tutto attorno i più grandi personaggi del paese, i duchi reali con le mogli, le splendide carrozze, le livree, il vecchio Grafton con la sua bizzarra brigata d'amici, e poi uomini come Ancaster, Sandwich, Lorne. Uno avrebbe potuto star certo che si giocava secondo le regole e sentirsi non poco fiero della compagnia in cui si trovava. Eppure vi giuro che, illustre com'era, quell'ambiente non era secondo a nessun altro in tutta Europa quando si trattava di derubare con grande classe, pelare uno sconosciuto, corrompere un fantino, drogare un cavallo o truccare i quaderni di un allibratore. Neppure io potevo tener testa a questi espertissimi biscazzieri che appartenevano alle più nobili famiglie d'Europa. Era per colpa della mia personale mancanza di stile? O era la fortuna che mi mancava? Non lo so. Ma adesso che ero arrivato al culmine delle mie ambizioni, sia l'abilità che la buona sorte sembravano abbandonarmi. Tutto ciò che toccavo mi si sbriciolava tra le dita. Tutte le mie speculazioni fallivano. Ogni agente in cui riponevo fiducia finiva per imbrogliarmi. Sono proprio una di quelle persone nate per guadagnarsi una fortuna, ma non per tenersela. Perché le qualità e l'energia che portano un uomo ad ottenere il primo risultato sono spesso, in un secondo tempo, le cause stesse della sua rovina. Anzi, che io sappia, non c'è nessun'altra ragione delle sventure che alla fine mi caddero sul capo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray,